2073, 60 anni dopo che ha colpito la peste scarlatta, una malattia che ha spazzato via gran parte dell'umanità, risparmiando solo alcune centinaia di persone, annientando così la civiltà che fino a quel momento era stata conosciuta e facendo in modo che questa regredisse a uno stato di primitivi e selvaggi. Questo è il racconto scritto da Jack London nel 1910, ambientato nella baia di San Francisco. Sicuramente non è stato il primo racconto su questo argomento, però ha saldamente consolidato il tema nell'immaginario collettivo, dando il via a tantissimi libri e film dentro i quali possiamo trovare numerosi riferimenti a questo racconto, spesso criptici. Quello che propone Jack London è una visione forse ingenua, sicuramente borghese, però con non meno gusto, cioè ci si può immergere in queste descrizioni di paesaggi americani ampi, sconfinati e improvvisamente solitari, ma non più dominati dalla presenza dell'uomo. Il sentiero tracciato dagli animali selvatici, non più largo delle spalle di un uomo, percorreva quello che un tempo era stato il terrapieno di una ferrovia, dove però nessun treno correva più da molti anni. Come un'onda verde d'alberi e di cespugli, la foresta aveva sommerso i pendii e la massicciata. Di quando in quando, un pezzo di ferro arrugginito spuntava dal suolo, ad annunciare che rimaneva la rotaia. Un albero del diametro di una trentina di centimetri, crescendo presso un giunto, aveva sollevato fino a scoprirla l'estremità di una spranga, insieme di una traversina, trattenuta dalla caviglia, che dunque sporgeva con un'inclinazione strana. La terra, la ghiaia e le foglie morte si erano accumulate sotto il legno marcescente e friabile. Per quanto la ferrovia fosse antica, era evidente che si trattava di una monorotaia. Un vecchio e un ragazzo percorrevano il sentiero. Camminavano lentamente perché il vecchio aveva molti anni sulle spalle e, tremante per effetto di una lieve paralisi, doveva appoggiarsi pesantemente a un bastone. Dal rozzo berretto di pelle di capra che gli proteggeva la testa dal sole cadeva una frangia rada di capelli bianchi e sporchi. Una visiera, ingegnosamente ricavata da una grande foglia, gli ombreggiava gli occhi con cui osservava il sentiero, badando a dove metteva i piedi. La barba, che avrebbe dovuto essere candida come la neve e invece appariva insudiciata dalle intemperie dei bivacchi, gli cadeva in una gran massa aggrovigliata fin quasi alla cintura. Sul petto e sulle spalle gli pendeva un unico indumento di pelle di capra, liso e sbrindellato. Le braccia e le gambe, avvizzite e magre, rivelavano una vecchiezza estrema, come l'abbronzatura, le cicatrici e i graffi rivelavano lunghi anni di vita selvaggia. Anche il ragazzo che lo precedeva, ma frenando l'ardore dei muscoli per adattarsi alla sua lenta andatura, indossava un unico indumento, una lacera pelliccia d'orso con una fessura al centro in cui passava la testa. Non poteva avere più di 12 anni. Sopra un orecchio portava, in maniera sbarazzina, una coda di porco tagliata di recente. Con una mano teneva un arco di medie dimensioni e una freccia. Sulla schiena aveva una faretra piena. Da una guaina appesa al collo mediante una cinghia di cuoio, spuntava l'impugnatura ammaccata di un coltello da caccia. Era scuro come una bacca e camminava con passo agile, quasi felino. In contrasto, spiccato con la pelle abbronzata, erano gli occhi, di un azzurro cupo, i quali, acuti e penetranti come succhielli, sembravano sondare tutto ciò che gli stava intorno, per un'abitudine che ormai era divenuta una seconda natura. Nel procedere fiutava senza posa gli odori, con le narici dilatate e tremanti, affinché il suo cervello analizzasse la serie infinita di messaggi che il mondo esterno inviava. Anche il suo udito, altrettanto fine e percettivo, operava allo stesso modo, con la medesima efficienza. Senza sforzo intenzionale, percepiva tutti i rumori più lievi nella quiete apparente, li distingueva e li classificava. Il frusciare del vento tra le fronde, il ronzare delle api e delle mosche, il fragore lontano del mare che giungeva soltanto negli intervalli di silenzio, il rumore prodotto da un roditore che, mentre gli umani passavano, spingeva una particella di terra nella tana. D'improvviso, il ragazzo si mise allerta. Suoni, immagini e odori gli avevano trasmesso simultaneamente un avvertimento. Subito protese un braccio all'indietro a toccare il vecchio. Si fermarono entrambi. Uno scricchiolio proveniente dalla foresta al lato del terrapieno attirò lo sguardo del ragazzo sulle chiome degli alberi scossi. Con una serie di schianti apparve una figura massiccia, un grizzly, che si fermò di scatto alla vista degli umani. Contrariato dalla loro presenza, emise un brontolio querulo. Lentamente il ragazzo incoccò la freccia e tese l'arco, senza mai staccare gli occhi dall'orso. Immobile, tanto silenzioso quanto il ragazzo, con gli occhi ombreggiati dalla foglia verde, il vecchio osservò la sagoma minacciosa. Per alcuni secondi la belva e gli umani si scrutarono a vicenda. Mentre l'orso tradiva una crescente irritazione, il ragazzo, con un movimento della testa, accennò al vecchio di lasciare il sentiero per scendere il pendio. Poi, indietreggiando sempre con l'arco teso, pronto a scoccare la freccia, lo seguì. Attesero entrambi finché il rumore della vegetazione schiantata proveniente dalla parte opposta del terrapieno rivelò che l'orso si stava allontanando. Era grosso, eh, nonno? Ridacchiò il ragazzo. Il vecchio scosse la testa. Diventano ogni giorno più grossi, si lagnò in un falsetto esile e incerto. Non avrei mai pensato di arrivare al giorno in cui si sarebbe dovuta rischiare la pelle per recarsi alla Cliff House. Quando ero ragazzo, Edwin, uomini, donne e bambini erano soliti lasciare San Francisco a decine di migliaia nelle belle giornate per venire qui. E non c'erano orsi allora, no, signore. Anzi, erano tanto rari che bisognava pagare in denaro sonante per andare a vederli nelle gabbie. Cos'è il denaro, nonno? Prima che il vecchio potesse rispondere, Edwin rammentò. Trionfalmente ficcò una mano nella borsa che portava sotto la pelliccia d'orso e ne trasse un dollaro d'argento, tutto ammaccato e ossidato. Quando il vecchio si accostò la moneta agli occhi per osservarla, il suo sguardo ebbe uno scintillio. «Non vedo», mormorò. «Guarda tu, Edwin, e dimmi se riesci a leggere la data». Il ragazzo rise. Sei grande, nonno, esclamò divertito. Vuoi sempre far credere che quei segnetti significhino qualcosa. Lasciando trapelare una contrarietà che gli era ormai abituale, il vecchio avvicinò di nuovo la moneta agli occhi. 2012! Strillò e si abbandonò a un ridacchiare grottesco. Fu l'anno in cui Morgan V venne nominato presidente degli Stati Uniti dal Consiglio dei Magnati. Deve essere stata una delle ultime monete a essere coniata, perché il morbo scarlatto colpì nel 2013. Oh, signore, signore, che pensi? 60 anni fa, e io sono l'unico sopravvissuto di quell'epoca. Dove l'hai trovata, Edwin? Il ragazzo, che lo aveva ascoltato con la curiosità tollerante che si accorda alle chiacchiere dei ritardati mentali, rispose senza esitare. L'ho avuta da Ho Ho, che l'ha trovata mentre pascolava le capre giù presso il San José, la primavera scorsa. Fu Ho Ho a dirmi che si trattava di denaro. Ma non hai fame, nonno? Rinserrando la presa sul bastone, il vecchio si rimise in cammino sul sentiero, gli occhi stanchi che scintillavano avidamente. Spero che Labbro Leporino abbia trovato un granchio, o magari due, mormorò. Sono buoni i granchi, sono molto buoni, quando non si hanno più denti e si hanno nipoti che vogliono bene al loro vecchio nonno e si prendono la briga di catturare i granchi per lui. Quando ero ragazzo. D'improvviso, Edwin vide qualcosa e tese l'arco, con la freccia già incoccata, fermo sul ciglio della forra che l'acqua aveva scavato nell'argine franato di un antico canale. Sulla sponda opposta, oltre l'estremità protesa di una balaustrata arrugginita e coperta di rampicanti, un coniglio stava accoccolato presso un arbusto e, tremante di esitazione, guardava il ragazzo. Era una distanza di 15 metri, ma la freccia, saettando, volò dritta verso la preda che, trafitta, emise un gemito improvviso di terrore e di sofferenza, prima di fuggire a fatica tra la vegetazione. come un lampo di pelle bruna e di pelliccia sventolante. Edwin corse giù per la rapida china e su per la sponda opposta della forra, con i muscoli snelli, simili a molle d'acciaio, che scattavano in azione efficiente e armoniosa. 30 metri più in là, nell'entrico della vegetazione, raggiunse il coniglio ferito, gli sbatté la testa contro il tronco e lo portò al vecchio. «Buono, il coniglio, molto buono!» commentò il vecchio con voce tremula. «Ma quando si tratta di gustose prelibatezze, preferisco il granchio, quando ero ragazzo!» «Ma perché dici tutte queste cose che non hanno senso?» interruppe Edwin, spazientito, dato che il vecchio minacciava di abbandonarsi alla sua solita loquacità. In realtà, il ragazzo non pronunciò esattamente tali parole, bensì qualcosa che vi somigliava remotamente in una lingua più gutturale, più esplosiva, più parca di frasi qualificative, imparentata alla lontana con quella del vecchio, che a sua volta era un inglese approssimativo, risciacquato in un bagno di imbarbarimento. «Quello che voglio sapere», continuò Edwin, «è perché dici che il granchio è una gustosa prelibatezza. Un granchio è un granchio, no? Non ho mai sentito nessuno chiamarlo in questo modo strano». Anziché rispondere, il vecchio si limitò a sospirare. Poi entrambi si rimisero silenziosamente in cammino. Il rombo della risacca divenne più intenso allorché sbucarono dalla foresta sulle dune sabbiose lungo l'oceano, dove pascolavano alcune capre sorvegliate da un ragazzo vestito di pelli, assistito da un cane assai simile a un lupo, che era soltanto la vaga reminiscenza di un colli. Al fragore dei frangenti si mescolava un ruggire continuo e profondo, proveniente da alcuni scogli aguzzi che distavano un centinaio di metri dalla spiaggia. Là, grandi leoni marini si issavano sulla roccia per giacere al sole o per combattere fra loro. Da un fuoco a breve distanza dalla foresta, custodito da un terzo ragazzo selvaggio, si levava del fumo. Lì accanto erano accoccolati alcuni cani, anch'essi simili a lupi, come quello che vigilava sulle capre. Fiutando bramosamente, il vecchio accelerò il passo nell'avvicinarsi al fuoco. «Molluschi!» mormorò in tono estatico. «Molluschi, e quello non è forse un granchio? Oh, non è forse un granchio? Oh cielo, voi ragazzi siete proprio buoni con il vostro vecchio nonno!» «Ne ho quanti ne vuoi, nonno!» sorrise Ho-Ho, che dimostrava circa la stessa età di Edwin. «Ne ho presi quattro!» L'entusiasmo tremante del vecchio era commovente. Sedutosi sulla sabbia, con la massima rapidità consentitagli dalle membra anchilosate, trasse dalle braccia un grosso mollusco, il cui guscio si era dischiuso nel calore, rivelando la polpa color salmone perfettamente cotta. Tenendolo fra il pollice e l'indice, con fretta trepidante se lo portò alla bocca. Ma era troppo caldo, perciò lo sputò violentemente. Mentre le lacrime gli scorrevano sulle guance, farfugliò un lamento. I ragazzi erano autentici selvaggi, e dei selvaggi condividevano l'umorismo crudele. Trovarono l'incidente spassoso e scoppiarono in una gran risata. Ho-Ho si mise a saltellare su e giù mentre Edwin si rotolava gioiosamente nella sabbia. Il giovane pastore arrivò di corsa per partecipare al divertimento. «Mettili a raffreddare, Edwin, mettili a raffreddare!» scongiurò il vecchio senza tentare di tergersi le lacrime che ancora sgorgavano copiose. E fai raffreddare anche il granchio, sai che a tuo nonno piacciono i granchi. In quel momento, dalle braci, si levò lo sfrigolio prodotto dai gusci di numerosi molluschi che si aprivano, trasudando umidità. Erano grossi, lunghi dagli 8 ai 15 centimetri. Servendosi di alcuni bastoncini, i ragazzi li posero a raffreddare su un tronco portato dalla marea. Quando io ero giovane, noi ragazzi non ridevamo degli anziani, li rispettavamo. Ciò detto, il vecchio continuò a blaterare un flusso incoerente di lamentele e di rimproveri, senza che i ragazzi se ne curassero. Poi, però, fu più cauto e non si scottò più la bocca. Mangiarono tutti, servendosi soltanto delle mani, con un gran biascicare e un gran schioccar di labbra. Il terzo ragazzo, chiamato Labbro Leporino, posò furtivamente un pizzico di sabbia sul mollusco che il vecchio stava portando alla bocca. E quando le mucose e le gengive del vecchio rimasero ferite, scoppiò un'altra risata fragorosa. Inconsapevole di essere stato vittima di uno scherzo, il vecchio sputacchiò finché Edwin, intenerito, gli offrì una fiasca piena d'acqua fresca, affinché potesse sciacquarsi la bocca. «Dove sono i granchi? Oh, oh!» chiese Edwin. «Il nonno ha una gran voglia di mangiarli!» Di nuovo gli occhi del vecchio lampeggiarono di bramosia, mentre gli veniva consegnato un grosso granchio. Il guscio era intatto, completo di zampe, ma la polpa era scomparsa ormai da parecchio tempo. Con dita tremanti, borbottando d'entusiasmo, il vecchio spezzò una gamba, scoprendola vuota. «E i granchi? Oh, oh!» gemette. «E i granchi?» «Scherzavo, nonno, non ce ne sono, non ne ho trovati!» Alla vista delle lacrime di delusione senile che scorrevano sulle guance del vecchio, i ragazzi furono sopraffatti dalla gioia. Poi, di nascosto, Ho-Ho sostituì il guscio vuoto con un granchio appena cotto, già smembrato. Dalle zampe spezzate la polpa bianca emanava una fragranza appetitosa, che catturò l'odorato del vecchio, il quale abbassò lo sguardo, sbalordito. Il passaggio dalla prostrazione alla gioia fu immediato. Annusando, continuò a borbottare in una cantilena di delizia e subito cominciò a mangiare. Era uno spettacolo consueto, al quale i ragazzi dedicarono scarsa attenzione. Allo stesso modo non si curarono delle esclamazioni e delle frasi che il vecchio si lasciava sfuggire di tanto in tanto e che per loro non avevano alcun significato. Una volta, per esempio, il vecchio mormorò qualcosa fra sé, biascicando con le gengive e schioccando le labbra. «Maionese! Pensate, maionese! Sono passati 60 anni da quando ne fu prodotta per l'ultima volta. 2 generazioni e non se ne è mai più sentito parlare. Eppure, a quell'epoca veniva servita in tutti i ristoranti con i crostacei. Una volta sazio, il vecchio sospirò, si pulì le mani sulle gambe nude e osservò l'oceano. Con la soddisfazione che gli derivava dallo stomaco pieno, si abbandonò alle reminiscenze. Pensate, ho visto questa spiaggia affollata di uomini, donne, bambini in una bella domenica, e non c'era il pericolo di venire divorati dagli orsi a quell'epoca. E proprio lassù, sulla falesia, c'era un gran ristorante dove si poteva mangiare tutto quello che si desiderava. 4 milioni di persone vivevano a San Francisco allora. E invece adesso in tutta la città, in tutta la contea, non ce ne sono più di 40. E là, sul mare, si vedevano navi in continuazione che andavano e venivano dal Golden Gate. E lassù, nel cielo volavano le aeronavi, dirigibili e altre macchine volanti che potevano percorrere 200 miglia in un'ora. Era questo il minimo richiesto per i contratti postali con la New York and San Francisco Limited. C'era un tizio, un francese di cui ho dimenticato il nome, che intendeva arrivare a 300 all'ora, ma era rischioso, troppo rischioso per i conservatori. Comunque, aveva ragione e ce l'avrebbe fatta se non fosse stato per la grande epidemia. Quando ero ragazzo, vivevano ancora persone che ricordavano l'avvento dei primi aeroplani e io stesso ho vissuto abbastanza per vedere gli ultimi. Questo avvenne 60 anni fa. Il vecchio continuò a parlare senza essere ascoltato dai ragazzi, che erano abituati alla sua loquacità e che, per giunta, disponevano di un vocabolario estremamente limitato, a cui mancava la maggior parte delle parole che lui usava. Era notevole il fatto che durante quei soliloqui disordinati il vecchio sembrava regredire a un inglese con una sintassi e una fraseologia più raffinate, mentre quando parlava direttamente ai ragazzi si abbandonava in gran parte al loro linguaggio più semplice, più rozzo. Però non c'erano molti granchi a quei tempi, continuò il vecchio. Erano considerati molto prelibati e quindi venivano pescati, ma la stagione di pesca durava soltanto un mese. Adesso invece si possono catturare tutto l'anno. Pensate, prendere tutti i granchi che si vuole, quando si vuole, nella battigia della spiaggia di Cliff House. Un tumulto improvviso fra le capre fece balzare in piedi i ragazzi. I cani che si trovavano accanto al fuoco accorsero a dar manforte a quello, ringhiante, che sorvegliava il gregge, mentre le capre fuggivano verso i loro protettori umani. Cinque o sei predatori, grigi e magri, sgusciarono via fra le dune oppure affrontarono i cani dal pelo irto. Una freccia scagliata da Edwin cadde corta, ma Labbro Leporino, armato di una fionda simile a quella usata da Davide contro Golia, lanciò un sasso che fischiò veloce nell'aria e cadde fra i lupi, inducendoli a svignarsela nelle profondità cupe della foresta di eucalipti. Ridendo, i ragazzi si sdraiarono nuovamente sulla sabbia. Allora il vecchio sospirò profondamente. Aveva mangiato troppo. Con le mani intrecciate sulla pancia, si dedicò di nuovo alle proprie divagazioni. Tutto ciò che è fugace si scioglie come la schiuma, mormorò pronunciando quella che era evidentemente una citazione. Schiuma, fugace, proprio così. Tutte le opere dell'umanità sul pianeta non erano altro che schiuma. Essa addomesticò gli animali che le erano utili, sterminò quelli che considerava ostili e spogliò la terra della vegetazione selvaggia. Ma poi anch'essa passò e la marea della vita primordiale montò di nuovo, spazzando via le sue opere. Le erbacce e la foresta inondarono i campi, le belve aggredirono le greggi, le mandrie, e ora ci sono i lupi sulla spiaggia di Cliff House. Tale consapevolezza lo atterrì. Dove 4 milioni di persone venivano a divertirsi, oggi vagano i lupi selvaggi e la progenie altrettanto selvaggia dei nostri lombi, armata di armi preistoriche, si difende dai predatori zannuti. Pensate, e tutto ciò a causa del morbo scarlatto. L'aggettivo attirò l'attenzione di Labbro Leporino, che disse a Edwin: Lo ripete in continuazione, che cosa significa scarlatto? Lo scarlatto degli aceri può scuotermi come lo squillare delle trombe che passa, citò di nuovo il vecchio. È il rosso, rispose Edwin. E tu non lo conosci perché vieni dalla tribù degli autisti, che non hanno mai saputo nulla. Scarlatto è il rosso, io lo so. Ma il rosso è rosso, non è così? Brontolò Labbro Leporino. E allora che cosa serve darsi tante arie e chiamarlo scarlatto? Poi chiese. Nonno, perché parli sempre di tante cose che nessuno conosce? Lo scarlatto non è niente, ma il rosso è il rosso. E allora perché non dici rosso? Rosso non è la parola esatta, rispose il vecchio. Il morbo era scarlatto. La faccia e tutto il corpo diventavano scarlatti in un'ora. Non lo so, forse, non l'ho forse visto abbastanza. E ti sto dicendo che era scarlatto perché, beh, perché era scarlatto. Non c'è altra parola per descriverlo. A me va bene il rosso, mormorò Labbro Leporino, ostinato. Mio padre chiamava rosso il rosso, e lui dovrebbe saperlo. Dice che sono tutti morti di morte rossa. Tuo padre è un tipo volgare che discende dalla gente volgare, ribatté il vecchio, accalorandosi. Forse che io non conosco le origini degli autisti. Tuo nonno era un autista, un servo, privo di istruzione, lavorava per gli altri. Tua nonna, invece, era di ottima famiglia, ma purtroppo i figli non hanno preso da lei. Non ricordo forse quando li incontrai entrambi per la prima volta accampati lungo Temescal. Che cos'è l'istruzione? Chiese Edwin. Chiamare scarlatto il rosso, intervenne Labbro Leporino in tono di scherno, rimbeccando il vecchio. Mio padre, che lo ha saputo da suo padre, prima che crepasse, mi ha detto che tua moglie era di Santa Rosa e che di sicuro non era importante. Ha detto che era una zambracca, prima della Morte Rossa, anche se non so cosa sia una zambracca. Magari puoi dirmelo tu, Edwin. Confessando la propria ignoranza, Edwin scosse la testa. È vero, era una cameriera, riconobbe il vecchio. Era una brava donna e tua madre era sua figlia. Le donne erano molto poche nei giorni che seguirono il morbo. Lei fu l'unica moglie che riuscì a trovare, anche se era una zambracca, come la chiama tuo padre. Ma non è bello parlare così dei propri progenitori. Papà dice che la moglie del primo autista era una signora. Cos'è una signora? Chiese Ho-Oh. Una signora è la schiava di un autista, rispose pronto, labbro leporino. Il primo autista fu Bill, un tipo volgare, come ho già detto. Spiegò il vecchio. Sua moglie, però, era una signora, una gentildonna. Prima del morbo scarlatto, era la moglie di Van Worden, che era il presidente del consiglio dei magnati dell'industria, vale a dire uno dei 12 uomini che governavano l'America. Aveva un patrimonio di 1.800.000.000 di dollari, monete come quella che tieni nella tua borsa, Edwin. Poi arrivò la peste scarlatta e sua moglie diventò la moglie di Bill, il primo autista. Per giunta, costui la picchiava spesso, l'ho visto con i miei stessi occhi.